nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Dove volevi andare con Ryanair il mese prossimo? Stai qua con me, non ti sposti, non vai da nessuna più, parte. Basta. Buongiorno, Deborah. Ecco, poi magari anche con una bella banconota da 500 euro in tasca. Ah, di questo parleremo a lungo, perché sul contante e sulla moneta elettronica c'è tutta una fibrillazione, per mamma dir così. Mamma mia, gran titoli dei giornali oggi. Pure voi parlate sul Sole 24 Ore di un'ipotesi di sanatoria, però diciamo che ecco, aspettiamo. La parola ipotesi siamo, è quella centrale. Siamo prudenti, sottolineerei la parola ipotesi. Ma posso dare una buona notizia in apertura? Guarda, noi noi dovremmo proprio caratterizzarci per questo, Mauro. Proviamo a dare le buone notizie legate ai soldi, perché gli italiani ne hanno un gran bisogno. Allora, voglio dare una buona notizia ai nati nel 99, ecco. Come ad esempio il portiere del Milan, Gigio Donnarumma. Certamente, che aspettava nello specifico questa misura. Certo, il quale sarà lieto di sapere che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto della Presidenza del Consiglio numero 136. E tu dirai, e chi se ne frega? No, questo decreto è quello che dà ai diciottenni la possibilità di spendere i famosi 500 euro del bonus 18 anni. Facciamo un approfondimento domani per le mamme e per i papà che aspettano questa misura. Volentieri, e ti posso già anticipare che questo decreto permette di pagarsi anche corsi di teatro, corsi di musica e anche corsi di lingue. Quindi questi stessi genitori che magari così volevano mandare in qualche capitale europea il prossimo mese i propri figli avevano prenotato un volo con Ryanair, adesso questo volo è stato cancellato, quantomeno saranno consolati da questa misura. Ebbene sì, una buona notizia. Esatto, invece per tutti gli altri passeggeri che rimarranno a bocca asciutta il mese prossimo, noi ne parleremo tra poco di questa vicenda che sta riempiendo anche in questo caso le pagine di tutti i giornali. 400.000 passeggeri a spasso per migliaia di voli cancellati il prossimo mese per un'avvertenza anche interna molto rilevante della compagnia. Quindi due temi, direi, di peso. Sì, questo allora, chi resta a terra e il contante che resta nelle cassette. Questo allora, ecco. Oppure no, vedremo. Vedremo. Chiamiamo anche all'appello gli ascoltatori che vogliono intervenire in diretta sui temi. Le modalità sono sempre le stesse. 800 24 00 24 se ci volete telefonare, se ci volete mandare un SMS o un WhatsApp. 349 238 6666 e magari ci volete mandare una mail, allora duedidenari@radio24.it. Partiamo. Aspetta che già Peter Bescapè c'ha una domanda per l'associazione dei consumatori, perché non abbiamo Michael O'Leary stamattina. Qualche conferenza stampa è prevista fra Roma e Milano, ne aveva già una ieri l'amministratore delegato appunto della società, oggi prova a replicare tra Roma e Milano e vedremo come intende gestire, anche se qualcosa l'ha già detto questa emergenza. Lo stavo guardando, un ascoltatore su WhatsApp che scrive: da Ryanair a Rabbiair. È un gioco di parole apprezzabile. Esatto. Lo segnaleremo anche a Leonardo Manera. Che stamattina si è cimentato con i tuoi endecasillabi, perché gli mancano. Sì, sì, tutti i poeti a Radio 24. Ma pensate, mica vengono a scrivere un articolo su Enorme Tributi, però, E su quello lì bisogna lavorarci ancora. Allora, Ryanair in fermento nei voli, questa azienda ha annunciato la cancellazione di una media di 40-50 voli al giorno da qui alla fine di ottobre, ne compie, c'è da dire, circa 2200 quotidiani di collegamenti. Il disagio coinvolgerà 400.000 passeggeri, le richieste di rimborso, è stato detto, arriveranno fra i 20-25 milioni di euro, ma bisogna capire con che modalità questi rimborsi verranno fatti, perché molte persone magari sì, cancellano, che ne so, un weekend di vacanza, qualcun altro magari ha un danno economico un po' più rilevante e non intende considerare sufficiente, no? Solo il rimborso nelle modalità standard con cui questa azienda può farlo secondo i regolamenti europei. Abbiamo due ospiti, Mauro, abbiamo chiamato sia l'ENAC. Esatto, la dottoressa Giovanna Laschena, che è vice direttore centrale per l'economia e la vigilanza degli aeroporti all'ENAC. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno. E poi abbiamo anche l'avvocato Carmelo Calì, legale della Confconsumatori. Buongiorno, avvocato. Esatto. Tra l'altro, buongiorno a voi e gli ascoltatori. Sono felice di farti conoscere l'avvocato Calì, perché è anche presidente di Confconsumatori Sicilia ed è praticamente un'associazione dei consumatori che vigila veramente in maniera ossessiva tutta la questione viaggi estivi. Hanno uno sportello proprio allestito, vero, avvocato Calì, a Catania. Però ecco, questa emergenza qua vi scoppia alla fine dell'estate, quindi magari siete anche un po' più tranquilli, detto ciò. è anche piuttosto rilevante, adesso ne parliamo però. Volevo sentire l'ENAC, qual è l'azione di monitoraggio che sta facendo su questa vicenda, dottoressa Laschena, perché chiaramente il vostro compito prioritario intanto è monitorare sulla regolarità dell'attività negli aeroporti. Al momento su questo immagino possiamo dire poco. Possiamo dire poco, anche se in realtà diciamo che dal punto di vista della operatività degli aeroporti, essendo cancellazioni che sono annunciate con notevole anticipo, non dovremmo prevedere particolari disagi, insomma, sia per i passeggeri e sia per gli aeroporti. Certamente ci sarà un numero, come avete detto, di passeggeri che non potrà utilizzare appunto i servizi della compagnia che cancella, e quindi da parte di ENAC senz'altro si monitora che tutto avvenga, che comunque le misure di riprotezione e quindi eventuale possibilità per il passeggero di utilizzare un altro volo, sempre della compagnia o di altre compagnie, o comunque il costo del biglietto, il rimborso del costo del biglietto, siano fatte in maniera regolare, così come sono previste dalla normativa dal regolamento 261 del 2009, che è un regolamento europeo proprio che regola appunto i casi di negato imbarco, cancellazione oppure overbooking. Certo, leggiamo la domanda di Peter, perché me l'ha trasmessa con uno scritto dal monitor. Peter Bescapesi dice che ha un volo prenotato, non so dove voglia andare, deve stare qui con noi. Infatti però comunque capisco. Ha prenotato un Mi volo si è permesso. E dice: ma quelli che vengono annullati sono quelli che sono stati comunicati oggi? Sappiamo che sul sito è stata messa una lista, o potranno essere annullati altri successivamente? Quindi il tuo non è nella famigerata lista già in circolazione, Peter. Ottimo. Dottoressa Laschena, lei può sapere anche questo? I voli sicuramente la compagnia può decidere anche di annullarne altri, cioè la cancellazione è una pratica che è una pratica legittima nell'ambito del mercato europeo, che è un mercato liberalizzato. Certamente deve avvenire alle condizioni che sono previste dalla normativa, quindi con una tempestiva informativa al passeggero e con il rimborso del prezzo pagato per il biglietto o eventuale riprotezione ed eventuale compensazione pecuniaria nei casi in certo. cui si possa in cui sia necessario pagare la compensazione. Ecco, dottoressa Laschena, la parola, l'aggettivo tempestiva fa sorgere la domanda: ma se me lo dicono alla mattina alle 8 per il volo di mezzogiorno, è una comunicazione tempestiva? No, non è tempestiva, perché non è, anzi, è una comunicazione irregolare, in quanto non viene, in quanto il regolamento europeo prevede precisamente dei termini che comunque insomma sono 20 giorni prima oppure 7 giorni prima, a seconda diciamo del tipo di volo. Quindi Peter, tieni a mente queste due cifre, 20 e 7, 20 giorni prima e 7 giorni prima. Qualora la compagnia non rispetti le modalità di comunicazione adeguata, appunto potrai rivalerti. Lo mandiamo dall'avvocato Calì. Esatto, sentiamo l'avvocato Calì. Allora, che succede se invece non si rispettano questi termini? Avvocato, voi avete fatto già attraverso il vostro sito il vademecum con tutte le istruzioni per l'uso per quei passeggeri che rimarranno in qualche maniera danneggiati da questa circostanza molto pesante. Avvocato Calì. Sì, ma diciamo che innanzitutto appunto bisogna distinguere fra i passeggeri che riceveranno l'avviso meno di due settimane prima e quelli oltre, perché quelli che riceveranno per tempo l'avviso, purtroppo, ahimè per loro, non potranno avere corrisposta la compensazione pecuniaria, mentre quelli che saranno avvisati in un termine inferiore avranno diritto alla compensazione pecuniaria. Questo significa allora che chi viene avvisato per tempo, è presumibile che saranno tanti passeggeri, visto che si parla di voli di qui a ottobre, non avrà diritto a risarcimenti oltre a quello che può essere il rimborso del prezzo del biglietto in caso che non venga utilizzato perché il passeggero sceglie liberamente di non accettare il volo alternativo proposto alla compagnia. Anzi, da questo punto di vista è bene precisare che la compagnia ha l'obbligo di prospettare la riprotezione, il passeggero è libero di accettarla o meno. Certo. Allora noi riteniamo che vi sia in virtù dell'articolo 12 del regolamento comunitario il cosiddetto risarcimento supplementare che, a prescindere dalla compensazione, consente al passeggero di essere risarcito di ulteriori danni. Allora, in questo caso, se io ad esempio scelgo di non essere riprotetto perché mi riproteggeranno fra 3 giorni, devo partire oggi, sono costretto, quindi rinuncio al volo e acquisto il biglietto di un'altra compagnia, se ho pagato il biglietto di Ryanair 70 euro e sono costretto a pagare 180 euro per il nuovo volo, subisco un danno di 110 euro che certamente la compagnia mi deve risarcire. Questo così come tutti altri eventuali danni di natura patrimoniale che il passeggero dovrà subirà a causa della cancellazione. Tra l'altro, guardi, avvocato Codino, adesso lo lascio completare, però siccome ero molto incuriosita dalle ragioni per cui questo blocco di questi voli si manifesterà in ottobre, ce ne sono diversi di fattori appunto che Ryanair ha individuato appunto per spiegare questo disagio a cui sottoporrà migliaia di passeggeri. Adesso, a prescindere da questa storia della fuga di 140 piloti verso la concorrente Norwegian Airlines, c'è anche la questione dello spostamento del calendario fiscale dal periodo aprile-marzo a quello gennaio-dicembre, a cui la compagnia è stata costretta dall'autorità dell'aviazione irlandese, la Irish Aviation Authority. Di conseguenza la Ryanair appunto è stata costretta per questa ragione a concentrare a fine anno i giorni di riposo obbligatori di piloti e personale di cabina, per cui tutto sommato non è neanche colpa della compagnia. Se quindi qui la rivalsa perché la compagnia è proprio per questo ha colpa, perché doveva ragionevolmente prevedere l'ipotesi in cui perdeva il contenzioso e quindi sarebbe stata costretta a mettere in ferie il personale in blocco, e quindi proprio perché c'era questo contenzioso doveva programmare tutelarsi per tempo, a sua volta, certo. Quindi questa decisione è totalmente illegittima, riteniamo che ci sono diversi profili per qualificarla come una pratica commerciale scorretta, perché oltre al regolamento rispetto delle regole del regolamento comunitario che richiamava anche la dottoressa Schia, oltre al rispetto di queste regole c'è anche rispetto a cui è dovuta la compagnia di quelli che sono i principi di buona fede contrattuali a cui è sottesa tutta la normativa a tutela del consumatore. E la giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha confermato provvedimenti dell'antitrust ha proprio sempre stabilito che ci deve essere questo contemperamento delle due esigenze, quelle del vettore di programmare i propri voli e quelle altrettanto legittime del passeggero di fare affidamento ragionevole su quello che è il proprio volo di partenza. Ci sono tantissimi messaggi degli ascoltatori, io ne ho su WhatsApp. Tomauro, vedi qualcosa di interessante? Sì, volevo però chiedere una cosa ancora alla dottoressa Laschena, ma questo, allora, è sempre possibile che il volo venga in qualche modo annullato o sostituito, ma fa specie che ci sia stata questa massa di voli sostituita. A questo punto voi come ente nazionale potete proporre qualcosa, predisporre qualcosa, censurare, avete poteri di sanzione sulla compagnia? Allora, sanzione per la decisione di cancellare questo numero così ingente di voli? No, sicuramente. Tra l'altro, essendo una compagnia con licenza irlandese, la compagnia è soggetta al controllo da parte dell'autorità dell'aviazione civile irlandese, quindi da parte nostra come autorità italiana non possiamo intervenire sulla compagnia. Diciamo che la pratica della cancellazione è dovuta ai fattori che voi avete richiamato, quindi sono sicuramente fattori eccezionali che intervengono in questo momento, anche se generalmente nei periodi che noi chiamiamo di spalla, cioè diciamo subito dopo, subito prima del picco estivo, avviene la pratica della cancellazione, in quanto magari i voli non sono così pieni e quindi la compagnia adotta questa scelta di tipo commerciale di cancellare. Certo, non è questo il caso, perché il numero dei voli cancellati è sicuramente notevole. Certo. E speriamo che ci si fermi qua. Allora, un paio di messaggi per l'avvocato dei consumatori. Per esempio Valeria scrive: contestualmente ai voli ho prenotato anche un albergo, per cui c'è, come dire, un danno economico un po' più ampio. Fabrizio chiede qual è il possibile danno d'immagine per Ryanair, diciamo che quello generalmente è anche abbastanza non calcolabile, non è che lo puoi quantificare, però mi pare abbastanza importante. E un altro ascoltatore chiede, Lino da Milano: se mi annullano solo il ritorno e non l'andata, che risarcimento mi spetta? Credo che le modalità di comunicazione debbano essere sempre le stesse, quindi 20 e 7, come dicevamo prima, nelle giornate di comunicazione preventiva nell'annullamento. Avvocato Calì. Sì, partiamo da quest'ultimo caso. Se viene annullato il volo di ritorno, nel rispetto dei termini, spetta in ogni caso la compensazione, il rimborso, l'eventuale di protezione e la compensazione o meno, oppure il cosiddetto risarcimento supplementare. E restando al risarcimento supplementare, passiamo alla prima domanda dell'ascoltatrice: appunto, se l'hotel, se è stata costretta a pagare delle penalità per annullare l'albergo, comunque ha pagato delle somme per annullare la prenotazione in albergo, questa rientra fra l'ipotesi di risarcimento supplementare, perché è un danno che il passeggero ha subito. Quello che raccomandiamo è di tutte queste spese conseguenti alle cancellazioni, di conservare le fatture, le ricevute fiscali, gli scontrini, perché l'unico problema che potrebbe esserci è quello di provare l'addebito di questa spesa. Tra l'altro, Mauro, c'è un ascoltatore che scrive anche: ma possono essere cancellati anche i voli in vendita adesso? Il tema, come dire, del danno ulteriore. Ti ricordi quando stato tutto il caos di Alitalia in primavera, no? C'è stato proprio un momento quando si temeva addirittura che la compagnia non avesse un soldi futuro per continuare l'ordinaria amministrazione. Esatto, ci fu proprio il blocco delle prenotazioni. Sicuramente Ryanair in questi giorni pagherà anche in questi termini. Probabilmente, sì. non che lo spieghiamo per loro, però. Giro la domanda alla dottoressa Laschena, a base anche alla sua esperienza: la possibilità che uno oggi compri un volo, appunto, Ryanair, e poi lo veda cancellato, esiste probabilmente questa possibilità, giusto? Sì, la possibilità esiste così come per tutti gli altri vettori, naturalmente. Sì. Certo, la risonanza che sta avendo questa decisione della compagnia di cancellare questo numero così alto di voli forse può incidere anche a livello, appunto, di opinione pubblica, e quindi dare meno affidamento al passeggero che vuole acquistare il biglietto. Certo. Ho una domanda per l'avvocato Calì invece: ma per ricevere questi rimborsi, queste restituzioni relative, come ci ha spiegato, al biglietto o ad altre spese sostenute, uno deve per forza rivolgersi a un avvocato? No, bastano le vie normali, cioè anche la email alla compagnia, dico bene? Sì, può benissimo il passeggero richiederle autonomamente, può inviarle per una semplice mail, oppure noi consigliamo, con raccomandata codice di ritorno, oppure anche alla PEC della Ryanair che c'è, e alla sede, alla rappresentanza in Italia. La compagnia ha una rappresentanza in Italia, quindi si può, sul nostro sito, noi abbiamo dato sul nostro sito www.confconsumatori.it tutte le istruzioni, man mano le aggiorneremo in base alle novità. Noi consigliamo anche la PEC alla rappresentanza in Italia di Ryanair, chiedendo queste istruzioni. Lo può fare un avvocato, lo può fare un'associazione di consumatori, lo può fare il singolo passeggero. L'ultima domanda da un ascoltatore che pure si chiama Carmelo, fa fede, ecco, perché qui un altro tema: c'è questa famosa lista di voli cancellati sul sito della compagnia, ma chiaramente poi i passeggeri che dovrebbero partire in ottobre e non partiranno più per i voli cancellati aspettano anche un'informazione individuale. Nel caso in cui questa, per tutta la serie di ragioni, si intoppa lo smartphone e il messaggio non arriva, ma il volo e la cancellazione del volo era regolarmente comunicata su questa famosa lista, avvocato Calila, la compagnia può riservarsi di dire: tu lo sapevi, quindi non... Ma allora il passeggero Il regolamento prevede che è la compagnia che deve dare la prova di aver avvisato il passeggero che il passeggero è venuto a conoscenza. Quindi se ci sono dei problemi tecnici, a mio avviso è sempre onere della compagnia accertarsi che il passeggero abbia ricevuto la mail e abbia letto e sia venuto a conoscenza, altrimenti qui tra due mesi saremo a litigare con la compagnia che dirà magari che aver inviato delle mail che poi non sono mai, non dico mai arrivate, ma mai partite, e il passeggero che dice non è arrivato nulla. Quindi bisogna da questo punto di vista esigere massimo rigore. La compagnia non deve limitarsi a inviare email, ma accertarsi che il passeggero abbia ricevuto le email e sia a conoscenza della cancellazione e della proposta di riprotezione. Benissimo, vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni. Intanto speriamo di aver dato delle istruzioni per l'uso al momento adeguate per i nostri amici passeggeri. Sì, anche perché ci state scrivendo in molti, grazie, fatelo naturalmente, perché come sapete i temi a due di denari tornano, ci torniamo infatti sopra spesso. Qualcuno ci dice: a me hanno cancellato il volo delle 6.30 alle 6.30, è stato un disagio. Beh, lo possiamo ben immaginare, insomma, quando capita questo è un disagio molto grosso da affrontare. Infatti, detto questo, poi tra l'altro l'avvocato ci dà anche una mano a microfoni spenti a rispondere individualmente agli ascoltatori, per cui potete scriverci. Detto ciò, salutiamo anche la dottoressa Laschena dell'ENAC per essere stata con noi. Adesso abbiamo i nostri ringrazie, abbiamo i nostri adempimenti. E certo, è il tuo momento, Deborah. Certo. Le borse. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta di denari. Una monetina te, una te, una monetina pure te, così fanno tre, una monetina per questa serata che non può finire, una per trovare, l'altra per sbagliare. Allora, abbiamo l'evoluzione naturale della cassetta di sicurezza. Sì, beh, diciamo un'evoluzione un po' ultima, però se è quello a cui di tu ultima sei, generazione. Se vuoi riferirti a quello che sto pensando, siamo un pochino oltre. Raccontala forse tu, perché questo è terreno tuo nel quale stamattina ti lascio sguazzare senza problemi. Cosa allora, hanno fatto queste simpatiche signore spagnole a Ginevra? Allora, premesso che, come abbiamo detto, dobbiamo parlare di contanti e di lotta al contante, nel senso che appunto lotta ai pagamenti non tracciati. Ebbene, leggete dal Sole 24 Ore di oggi, pagina 2. Delle signore hanno pensato bene di disfarsi delle banconote, forse avevano capito che appunto il contante era da abbandonare, ma non si intendeva in questo senso, gettandole semplicemente nel WC, insomma, non so come dirlo in modo più elegante. Ah no, guarda, non c'è proprio un sinonimo del concetto da utilizzare. Sminuzzandole e sminuzzandole, poi probabilmente, immagino, tirando lo sciacquone, insomma, un modo un po' originale per far non emergere il contante, come invece vorrebbe fare la prossima manovra. Vedremo se poi si farà, ma qui direi immergere il contante. Completamente. Ma perché loro, sai, sapevano che queste banconote da 500 euro a breve non potranno più essere utilizzate, perché c'è la lotta del signor Draghi da Francoforte, e quindi dice: ma perché dobbiamo fare questa figura di farci trovare con questo denaro in tasca? E sono, erano forse troppo avanti. Dentro la banca, peraltro. Allora, erano così avanti che chiederei un parere ai nostri ospiti. Sono Giovanni Parente, in collegamento da Roma. Buongiorno Giovanni. Buongiorno a voi. E poi Nicola Forte, dottore commercialista, esperto del Sole 24 Ore, si occupa da sempre di soglia del contante, monete elettroniche e quant'altro. Buongiorno Nicola. Buongiorno, buongiorno, sin dai tempi del famoso decreto Monti. Il famoso decreto Monti, quello della soglia a 1000 euro, ricordo bene? Esatto. Ma adesso la soglia invece è 2.999,99 euro. Ecco, così non facciamo confusione. Infatti. Allora, partirei da Giovanni, Debora, se sei d'accordo. Sì, con le novità di cui lui scrive molto stamattina sul Quotidiano, addirittura si è guadagnato pagina 2, per cui direi di dargli lo spazio che merita. Allora Giovanni, che succede? Facciamo una sanatoria per il contante? Non la facciamo? In realtà la sanatoria già c'è, si chiama voluntary disclosure, ma nessuno aderisce, e quindi il governo sta pensando di così vararne un'altra di natura diversa. Una misura un po' più incisiva? Sì, più incisiva, diciamo che ha una misura che abbia più convenienza per chi appunto ha delle situazioni da sanare, perché come diceva giustamente Mauro, la sanatoria è già in corso con la voluntary disclosure bis, e il termine termine per aderire scade il 2 ottobre. Però insomma il meccanismo è quello appunto della tipico della voluntary disclosure, per la quale le imposte si pagano tutte e poi c'è uno sconto su sanzioni e interessi. Per il contante insomma non è stata prevista quindi un'ipotesi di un forfait, che era l'ipotesi che circolava l'anno scorso più o meno di questi tempi, quando appunto si discuteva della, di quella che adesso si chiama legge di bilancio, in realtà è la vecchia finanziaria, in base alla quale appunto se si sarebbe se un contribuente avesse voluto sanare appunto situazioni di evasione attraverso cui aveva accumulato il contante, avrebbe potuto pagare un forfait, si ipotizzava una soglia del 35% e chiuderla lì con il fisco. Quella misura non passò perché tra l'altro se ricordate era l'epoca in cui fu scoperto il tesoro di Corona, no? E quindi sì, da molte parti politiche, anche all'interno della stessa maggioranza, venne etichettata come norma salva Corona. Ma sai che non me la ricordavo questo passaggio? Certo, Corona che fu trovato con del contante in casa in un controsoffitto. Questo me lo ricordo, ma che addirittura questa sua situazione personale fosse associata a una decisione del governo di fare un dietrofronte sulla misura. Ti ringrazio di questa richiesta di precisazioni, Deborah, perché anch'io vorrei fare una precisazione aiutandomi con Giovanni e col dottor Forte, cioè stiamo parlando di contante che, come dire, uno si è dimenticato di segnalare al fisco, non so dirlo in modo più elegante, in sostanza il classico canonico pagamento in nero. Allora, questo, se uno ha un guadagno che poi si è scordato, così può accadere, certo, di dire al fisco, magari lo ha messo nella cassetta di sicurezza oppure nel controsoffitto, come era questo caso, può ritornare in una posizione di salute. Questa è l'idea già della voluntary bis che è in corso, pagando le imposte che all'epoca evidentemente non ha pagato, oppure pagando un forfait, che era la prima ipotesi appunto della norma salva Corona. Ecco, ma Giovanni, in realtà il governo non ha in mente solo questo aspetto del contante, che poi vedremo quanto verrà perseguito. Ci sono anche c'è una spinta molto forte sull'elettronica, fattura elettronica, incentivi per l'utilizzo della moneta elettronica, sanzioni per il famoso uso dei POS, del bancomat, insomma, nei pagamenti presso i professionisti di cui abbiamo parlato. Di venerdì, il decreto legislativo. È così, giusto, un po' il panorama che si prepara per la prossima manovra. Sì, sì, certo, Mauro. È un panorama molto articolato perché allora, sulla fattura elettronica è possibile, anzi possibile, si sta studiando in realtà da mesi l'ipotesi di un'estensione, non diciamo tanto per farci capire, ai privati, vale a dire appunto alle transazioni che vengono effettuate tra operatori commerciali, quelle che sono i business to business, no? Cioè un rapporto tra ad esempio un grossista e un venditore al dettaglio, tanto per citare un caso qualsiasi. Qual è il problema? Che questa è un'operazione che andrebbe in deroga a un divieto comunitario. Quindi è necessario il via libera dell'Unione Europea per poter appunto stabilire l'obbligatorietà della fattura elettronica. Naturalmente questo richiederebbe comunque tutta una serie di adeguamenti anche strutturali da parte di imprese e professionisti che auspicano, sperano che se si decidesse appunto per la fattura elettronica, dall'altro lato arrivi una drastica riduzione degli adempimenti IVA. Ne abbiamo parlato proprio venerdì, ad esempio, dello spesometro o della comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA. Per quanto riguarda invece la moneta elettronica, è in via di ultimazione, si sta lavorando a quel famoso decreto attuativo delle sanzioni. Allo stesso tempo ieri è tornato forte il tantam che vorrebbe appunto una spinta, un'incentivazione alla moneta elettronica, all'utilizzo della moneta elettronica anche attraverso un sistema di crediti d'imposta fiscali, di bonus, soprattutto per agevolare esercenti dettaglianti e professionisti nella fase di infrastrutturazione, cioè nell'acquisto della macchinetta, il POS che serve a ricevere i pagamenti con moneta elettronica. Fa parte di un altro provvedimento di cui avevamo sempre parlato venerdì, che però è stato adottato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri e che ora va in Parlamento per l'esame delle commissioni parlamentari competenti, questa attuazione della direttiva PS2, che è quella direttiva sui servizi di pagamento, che ridefinisce le commissioni bancarie appunto dai pagamenti, da pagamenti anche con strumenti di moneta elettronica, e fissa un tetto per quanto riguarda i micropagamenti, quindi insomma viene indicato che insomma non possa superare una determinata soglia fissa un pagamento che sia sotto o pari a 5 euro. Questo è un pacchetto molto variegato, quindi che si articola su una serie di provvedimenti diversi, non solo attraverso la manovra. Allora, abbiamo Maurizio da Prato, che è un ascoltatore che torna su questo argomento. C'era anche, sì, credo che i ragazzi mi avessero scritto che si tratta di un piccolo imprenditore. Maurizio, buongiorno. Buongiorno. Allora, qual è la sua idea su questo argomento? L'idea è semplice: se tutte le volte si va a pagare con un bancomat o un assegno o una RIVA o un qualsiasi cosa, ci viene tassata. Cioè, noi se preferisce pagare in contante, per me dovrebbe essere il contrario. Pagare in contante, se vuoi eliminare il nero, tutto quello che vogliono fare, dovrebbe essere tassato il contante e agevolato i pagamenti, diciamo, tracciabili, bancomat, assegno e tutto il resto. Ma se viene fatto il contrario, cioè anche noi si preferisce pagare in contante. Lei a quali pagamenti in particolar modo si riferisce, Maurizio? A tutti, anche a pagare una bolletta qualsiasi. In banca ti viene tassata. Se noi si va in banca e si va a pagare in contante una bolletta, la paghi 100 euro, per dire. Se si paga con i POS o con qualsiasi altra cosa, viene pagato 100 euro, 101 euro per la commissione, certo. 100 euro per chi mi va pare a pagare. Grazie Maurizio. Beh, con questo provvedimento un po' si è preso atto di questa situazione, si prova un po' a ridimensionare tutto il sistema degli oneri. Il provvedimento che arriverà correggerà proprio, cercherà di correggere, di alleviare questo. Poi un altro discorso è quello, noi diciamo spesso tassato, poi in realtà è gravato da spese che possono essere quelle della banca. Lì si può anche cambiare banca, trovare una banca che magari consente le modalità di fare molti pagamenti online, perché ormai le bollette si possono pagare. Sicuramente. Infatti, i costi sono molto inferiori. Però ti dico una cosa, di tutto questo parliamo dopo il traffico. Due di denari. Ero convinta di avere gli ABBA qua, invece mi hanno colto di sorpresa. Ma i ragazzi, sempre Marco Lombardi e Peter Bescapè ci colgono di sorpresa. Esatto. Allora, qua calzolai, commercianti, imprenditori, sono tante le categorie che ci stanno scrivendo. Potremmo trattare questo argomento, Mauro, tutti i giorni, e ogni giorno troveremo ovviamente considerazioni pittoresche. Ma sì, perché Deborah, l'uso della moneta elettronica, per quanto lentamente avanzi, perché ne abbiamo scritto anche sul Sole 24 Ore di ieri. Poi adesso pagheremo tutto col telefonino. Sì, no? Ci quindi sono in realtà, sempre più mezzi per pagare in modo, come si dice, tracciabile, sfruttando proprio l'elettronica. Però il contante è, come dire, resistente, la resistenza del contante è davanti agli occhi di tutti. Allora io tornerei con il dottor Nicola Forte, perché appunto ci ricordava prima, c'è questo limite di utilizzo a 3.000 euro, cioè 3.000 euro sei già fuori, perché lui correttamente dice il limite di utilizzo è 2.999,99. E chiederei appunto al dottor Forte, ma questi provvedimenti, come ad esempio le sanzioni per il POS eccetera, perché di fatto faticano così tanto, suscitano così tanta diffidenza anche da parte di chi dovrebbe applicarle, dottor Forte? Ma sostanzialmente le ragioni sono duplici. Uno, lo abbiamo appena ricordato, per i micropagamenti, problema che è in corso di risoluzione, cercando appunto di calmierare le commissioni, quindi lo schema che andrà in discussione. Poi però dobbiamo considerare anche un altro aspetto, questo dipende molto dal tipo di attività. Per esempio abbiamo delle attività professionali dove in effetti i professionisti o le attività si caratterizzano per pagamenti in una soglia più o meno che consente l'utilizzo di bancomat, carta di credito, no? Pensiamo alle spese mediche, da 100 a 500 euro, ma in alcuni casi ormai i clienti, i professionisti sono abituati a fare pagamenti ad esempio tramite bonifico, anche certo, un po' in ragione alla natura delle prestazioni. Pensiamo all'attività notarile, no? Quando al notaio oltre all'onorario si consegnano le imposte, e in effetti è un po' difficile, considerati i limiti all'utilizzo di carte o banco, ma pagare con questi strumenti, e quindi più frequentemente si ricorre al bonifico. Oppure pensiamo anche agli artigiani, no? Il problema del POS, i manutentori che si recano poi presso l'idraulico e l'elettricista. Adesso ci chiameranno tutti gli idraulici, lo sai. Stiamo provando a darle tutte le categorie professionali per non offendere nessuno. Esatto, però vabbè, facciamo degli esempi. Certo, quindi ecco, sotto questo profilo, diciamo, gli strumenti possono avere anche difficoltà a decollare, anche un po' in funzione delle caratteristiche dell'attività. Ecco, dottor Forte, ci scrive un ascoltatore, ci ha scritto per i nostri sms, WhatsApp 349-238-6666, dice: ma perché se ho dei contanti nella scatola dei biscotti devo essere considerato evasore? Un altro ascoltatore lo stesso scrive su WhatsApp e dice: ma perché se devo dire allo Stato che ho del contante, vabbè, quando poi lo Stato è il primo che non si comporta correttamente. No, perché facciamo un attimo di chiarezza su questo contante che andrebbe dichiarato, usiamo sempre il condizionale. Dipende da dove arriva. Dipende da dove arriva e dipende soprattutto dalla misura, perché io se conservo a casa 500, 600, 700 euro un conto, se conservo invece 50.000 euro il problema è diverso. Soprattutto voglio ricordare una cosa a proposito del limite di 2.999,99 euro, nessuna norma mi impedisce teoricamente di andare in banca e versare 50.000 euro in contanti. Qui io non commetto alcuna violazione, perché quel limite riguarda il trasferimento tra soggetti diversi. Io sto andando in banca e sto versando sul mio conto corrente. Qual è il problema? Il problema è che se la banca vede un denaro contante per 50.000 euro e probabilmente si sospetta che quel denaro, oltre al problema dell'evasione, derivi da un'attività di riciclaggio, e quindi la banca potrebbe a certe condizioni, anzi lo farà, una segnalazione di operazione sospetta. Quindi è un problema di equilibrio, di misure, non necessariamente essere del contante o sono evasore. Esatto, perché dottor Forte, lei giustamente evoca anche il discorso dell'antiriciclaggio. Quando ci sono pagamenti in contanti per somme molto ingenti, sto pensando veramente alle centinaia di migliaia di euro, i professionisti stessi, oltre che le banche e gli intermediari finanziari, sono tenuti a vigilare per accertarsi che appunto questo denaro non abbia una provenienza sospetta o che l'operazione non lo sia. Questo non c'entra niente, diciamo, con l'evasione fiscale. Qui è un problema di lotta alla criminalità organizzata. Se io improvvisamente mi presento alla mia banca e verso mezzo milione di euro tutto in contanti, possono anche pensare che o il Sole 24 Ore mi ha notevolmente incrementato la retribuzione, oppure che magari ho delle entrate extra. Quando fai questa trasmissione, come noto... Come è noto, sì, come volontario. No, scherzo naturalmente. È così, giusto, dottor Forte? Perché c'è questa cosa dell'antiriciclaggio che è importante, che vigila molto questo. Certo, certo. Ricordo che, per esempio, anche dal 2006 il famoso decreto Bersani-Visco obbliga i notai a indicare negli atti di pagamento, negli atti di trasferimento di immobile, i mezzi di pagamento. Non si può più utilizzare la formula del tipo la parte da ampia e liberatoria quietanza, bisogna indicare i mezzi di pagamento. Quindi una cosa è il tema dell'antiriciclaggio, poi a fianco al tema dell'antiriciclaggio si associa il tema dell'evasione, perché io 50.000 euro potrei aver ottenuto, potrei riciclare denaro, ma potrei aver posto in essere attività in nero che mi hanno portato a non dichiarare il reddito, e quindi c'è anche un problema di applicazione di imposte non pagate. Quindi il problema è duplice. Allora, intanto, vabbè, c'era Alessandro da Roma che non riusciamo a far intervenire, voleva dire: ritengo il contante l'ultimo baluardo della libertà personale, ma opinione sì, anche magari effettivamente non è tracciabile, però devo dire che anche i social network oramai non ci lasciano molta libertà personale, per cui, potete seguirci su Facebook, tanto per dire, alla old, siamo molto tracciati, basta il nostro telefonino a far sapere infatti a tutti dove siamo. C'è un aspetto, adesso noi non riusciamo a trattarlo, però io te lo lancio per un'altra puntata, Mauro, perché invece la questione è cassette di sicurezza è molto divertente, perché bisogna vedere cosa c'è lì dentro. E quando si aprono, perché magari una persona è passata a miglior vita, bisogna aprirle per consegnare in eredità tutto il contenuto, si trova dentro di tutto. Quindi altro che lotta all'evasione, lì sarebbe veramente interessante capire come il contenuto delle cassette di sicurezza va gestito. Ti lancio questa puntata da fare. Guarda, volentieri, presto. Anche perché vorrei ricordare, quando appunto tu fai il caso alla persona passata a miglior vita, non nel senso che è andata in un paradiso tropicale, non fiscale, no, e non fiscale, ecco, in quel caso lì poi ci sono delle norme molto stringenti. Ad esempio, ci deve essere l'apertura da parte di un notaio che fa l'inventario. È lì che ti volevo, perché siccome sono proprio i notai che mi ha raccontato delle cose divertenti, vorrei condividerle con i nostri ascoltatori. Ma certamente lo faremo. Allora, ringraziamo Giovanni Parente. Naturalmente l'invito è ad ascoltare Radio 24 e a leggere Il Sole 24 Ore, perché ogni giorno ci Giovanni Parente insieme agli altri ciò. Colleghi Marco Mobili e altri ancora, infatti. Marco Rogari, ci aggiornano. Buongiorno, infatti. Giovanni, grazie. Grazie a voi. Intanto che stiamo completando la legge sulla concorrenza, poi arriverà la legge di bilancio, Mauro, per cui temi da qui a Natale da affrontare per i nostri ascoltatori ne abbiamo. Buona giornata, a domani.